I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Visto facile per cittadini stranieri non europei che vogliano investire in Italia, agevolazioni fiscali per i fondi che investono in immobili pubblici e delle assicurazioni, credito d'imposta per la ricerca anche per società italiane e delle multinazionali, infine bonus per il rientro dei cervelli da rendere strutturale. Sono i capisaldi di un provvedimento che dovrebbe rilanciare la competitività, che il governo ieri ha solo esaminato in via preliminare durante una riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di oggi. Si tratta di misure ancora da perfezionare che si aggiungono alle agevolazioni per i piani di risparmio individuali e a quelli per le società quotate che investono in start-up. Più nel dettaglio si studia la possibilità di concedere i visti al di fuori delle quote previste dal decreto flussi a cittadini extracomunitari che investano in titoli di Stato per almeno 2 milioni di euro o in partecipazioni di società per almeno 1 milione di euro o in attività filantropiche sempre per almeno 1 milione di euro. Si tratta di un escamotage per evitare intenti speculativi o solo di facciata. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni. La parte sulla ricerca invece intende attrarre investimenti e talenti nel contempo. Con una norma interpretativa il credito d'imposta per investimenti in ricerca che oggi è in vigore verrà esteso anche alla ricerca effettuata da un'impresa residente su commissione di un'impresa non residente, dello stesso gruppo però. In pratica si tratta del via libera agli sconti fiscali per gli investimenti in ricerca fatti dalle filiali italiane delle multinazionali. Quanto ai piani di investimento individuali è prevista l'esenzione dall'imposta sui rendimenti, che oggi è del 26%, per chi investe almeno 30.000 euro l'anno in imprese che abbiano almeno un fatturato di 300 milioni e lo faccia per almeno 5 anni. Per ora è una bozza, il lavoro di preparazione deve andare ancora avanti, ma il tempo stringe, soprattutto perché è con provvedimenti di questo tipo che si accelera la ripresa dell'Italia. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Sospensione del bail-in, più investimenti nell'economia reale, taglio del cuneo fiscale per liberare risorse per i consumi. Sono questi essenzialmente i 3 punti chiave dell'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alle considerazioni finali presentate oggi a Palazzo Koch. Una relazione interessante per quanto i temi fossero già ben noti. Da mesi ormai si discute degli effetti del bail-in sull'economia italiana, degli errori, soprattutto sulla finanza e sulle nostre banche e sulla psicologia dei risparmiatori, ormai consapevoli che nessuno potrà salvarli nel caso in cui la loro banca dovesse andare in crisi. Ma tant'è, questi sono i tempi del quantitative easing, degli allentamenti quantitativi, della liquidità a pioggia, che per quanto liquida non riesce proprio a solidificare un tessuto industriale e un sistema bancario che ancora non soffrono di una recessione lunga e che è stata soprattutto più dura negli altri paesi. Comunque sia, Europa a parte, la chiave di lettura resta soltanto una: avere pazienza che il sistema bancario si ristrutturi e torni ad essere in grado di sostenere un'economia che ha estremamente bisogno di risorse e soprattutto di idee per il proprio sviluppo. Da anni ormai non si cresce più, si cresce troppo poco. L'Europa impone solo rigidi vincoli e poche opportunità di crescita. Saranno queste le grandi sfide per l'anno a venire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.